Buongiorno e bentrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Città Fujiko. Oggi abbiamo con noi il dottor Santiago Isaza. Lui è il direttore sanitario della clinica e dello studio dentistico Isaza, che è in via del Rondone. Bentrovato. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, è per me un piacere essere oggi con voi. Anche per noi lo è, anche perché andremo a parlare di un argomento che in qualche modo è una novità per molti di voi che ascoltano. E stiamo parlando delle impronte digitali, ma non delle dita, ovviamente, ma delle arcate dentali, giusto? Sì, effettivamente questa è una novità che in realtà si è addentrata sulla nostra branca dell'odontoiatria da diversi anni. Può spiegarci più nel dettaglio innanzitutto come siete stati apripista in questa cosa e come adesso può essere di aiuto a adulti e bambini che necessitano di apparecchi dentali? Siamo stati contattati da un'azienda svedese, sia il mio odontotecnico che il signore Stefano Negrini, i quali ci hanno chiesto di fare da prepista per poter utilizzare le impronte digitali non solo in un contesto di protesi, ma anche ortodontico. Quindi questo ci ha consentito effettivamente di diffondere l'utilizzo dell'impronta digitale soprattutto in età pediatrica, cioè sui bambini. E mi diceva questo prima a microfoni spenti, ha un impatto di qualità molto diverso rispetto a quello che si è sempre fatto. Decisamente l'impatto è positivissimo, la qualità è superiore, i tempi li abbiamo accorciato, non abbiamo più i modelli in gesso, è tutto gestito digitalmente e prendo o faccio la mia impronta digitale o scanner intraorale e a distanza di pochi secondi queste impronte arrivano già nel laboratorio e di conseguenza inizia tutto si chiama workflow o flusso di lavoro per rendere efficace e immediato la consegna del dispositivo per i nostri pazienti. L'odontotecnico ha un ruolo fondamentale nella nostra professione come odontoiatri perché noi ci dobbiamo interfacciare per poter non solo fabbricare i dispositivi nel loro laboratorio, ma per migliorare la qualità. La saldatura al laser l'abbiamo introdotto negli anni, alla fine degli anni 90, oggi una realtà è un qualcosa che consente a due metalli di unirsi fra di loro senza rilasciare corrosione, quindi è biocompatibile al 100% e molto più precisa e sicura. E anche la tecnologia 3D vi è venuta in aiuto. Assolutamente, di conseguenza tutto quello che noi abbiamo imparato in questi anni a fare dal punto di vista prettamente ortodontico, arrivata questa ondata delle nuove tecnologie, ci ha consentito, appunto, come dicevo precedentemente, non solo di migliorare la qualità i dispositivi che noi consegniamo ai nostri pazienti, ma anche la comunicazione. Oggi in termini di diagnostica siamo molto più evoluti di anni fa, nonostante la diagnostica è sempre basata su concetti di anatomia, di fisiologia e così via, ma l'aggiunta delle nuove tecnologie ci consente di comunicare molto chiaramente con i pazienti e diventa un consenso informato nei suoi confronti. E quindi anche probabilmente maggiormente collaborativo con i bambini, penso. Assolutamente, questo è un qualcosa che abbiamo notato, come dicevo precedentemente, perché il paziente si rende partecipe alla terapia, quindi la collaborazione, soprattutto quando utilizziamo i dispositivi rimovibili, cioè che il paziente in autonomia deve mettere in bocca, i bambini soprattutto, il fatto di lui capire qual è la sua malocclusione, quando stiamo parlando di patologie, stiamo parlando fondamentalmente di malocclusione, lo rende molto più partecipe e collaborativo durante la terapia, di conseguenza i risultati sono migliori. Quindi noi intanto la ringraziamo per le informazioni e magari diamo ai nostri ascoltatori se ci può ricordare un vostro sito o un posto dove trovare codeste informazioni. Allora, intanto noi abbiamo il nostro sito che appartiene alla clinica SRL, Isaza SRL, la potete cercare su internet e come dicevamo prima, noi ci troviamo a Bologna in via del Rondone 1/2A.